later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli si attende l'avvento dell'apocalisse, Cappa e Drago vedono il pollo in sbattimento, davvero in sbattimento. Ma no, adesso, allora no! Pollo? No, no! Pollo in sbattimento? Cosa c'è? Cosa è successo? Cosa c'è? Ho perso il lavoro! Ah, il lavoro di minacciatore di galline ritardatari! Ma no, di galline ritardate! Adesso non posso più lavorare. Ma perché? Per le mie fobie sociali, no? Ma non ti erano passate? Mi erano passate e mi sono tornate. E adesso sono in sbattimento, Come mai ti sono tornate? A me lo chiedi. Non so, magari perché ho smesso di botto con la paroxetina. È per quello, sì, ma lo sanno tutti, lo sanno anche i polli. Se smetti di botto con la paroxetina non va bene, non va bene. Allora dovevo fare le cose gradualmente. Sì, certo, l'uscita graduale. Ma io sono impaziente, Io non riesco mica a essere equilibrato, E se no, perché prendevo la paroxetina prima. Però adesso? Adesso sono in sbattimento, no? Ma cos'hai esattamente? Le crisi di panico? No. Cos'hai, voglia di scappare? No, io ho solo voglia di starmene qui, tutto raggomitolato in un angolo del pagliericcio. E non voglio vedere nessuno e non voglio parlare con nessuno. Però con noi parli, non mi sembra che tu sia tanto a disagio, no? Sì. Io non vedo l'ora di smettere di parlare. Così voi ve ne andate e mi lasciate in pace. Ma cosa credete? Vabbè, dai, basta chiedere. Se vuoi, se quello che vuoi è stare triste e solo, noi ti accontentiamo. Infatti, vieni, se vuoi, andiamo, ciao. Ma io sono in sbattimento, No, e adesso, ma no. Il divertimento è uno sbattimento. Ed il talento è uno sbattimento. È il talento. L'allenamento è uno sbattimento. Allenamento no, Ogni momento è uno sbattimento. Il giuramento è uno sbattimento. No, io no, Su con il mento è uno sbattimento. Ma quale mento? Esser contento è uno sbattimento. Contento io? Il mio Nintendo è uno sbattimento. Vivo il mio tempo di grande fermento, che gran sbattimento la vita mi dà, sbattimenta. Sbattimento, La fabbrica di polli. 613, 614, 615, 616. Cappa, cosa fa? Non dorme. Ci sto provando. Conto i polli, Ma con i polli non funziona, funziona solo con le pecore. Perché, scusa, contassi pure delle cavallette? Il principio di contare per indurre il sonno dovrebbe funzionare sempre, in ogni caso, indipendentemente da cosa conti. No, Cappa, cambiando animale cambia effetto. La pecora fa venire sonno perché è l'animale più mansueto che c'è. Il pollo? Il pollo ti fa andare in sbattimento perché i polli che conosci sono tutti in sbattimento. Facile. In effetti, quando conto i polli per addormentarmi, non è che li immagino che saltano un ostacolo come le pecore. L'immagino che passano in quella macchina che taglia la testa. Solo che poi la macchina è rotativa ed è un casino contarli. Bisogna contare quanti giri fa la macchina al minuto sapendo quanti polli fanno parte della giostra rotante. Dopodiché moltiplicare il numero dei polli per i giri della macchina e dividere tutto per 60, che, lo sappiamo, sono i secondi che compongono un minuto. A quel punto sapremo con esattezza quanti polli sono... Drago! Drago! quanti polli vengono decapitati al minuto. Mm-hmm. Ma perché spreco il mio fiato? No, basta. Tu di matematica non hai mai capito niente. Ma basta, ma cosa sto facendo qua? Perdo tempo. Una perdita di tempo. Matematica, professore, abbia pietà. No. No, l'equazione alla lavagna, no. Professore, no, io ho dimenticato. Professore, no. E invece alla lavagna sì. Sì. Un'equazione molto difficile. Agna, agna, agna. Alzati e vai alla lavagna. Ho detto alzati e vai alla lavagna. Guarda che ti faccio la nota! Agna! Agna, agna! Insider Trading! Finalmente! If you're tired of waiting! Insider Trading! Tutte le intercettazioni telefoniche che avete sempre sognato di ascoltare! Get your Insider Trading! Insider Trading! Anni è facile, diciamo che hanno dei moduli prestampati, si sviluppano prima, sì, e hanno anche una vita più breve, perché ingiustamente talvolta vengono giustiziati, ma questo capita solo a uno su due, non a tanti, ecco. Insider Trading. Pronto, dottore? Dovrei parlarle. Che io, un po' di tempo, e continuo a sognare ancora di essere un negoziante di dischi. Sì, ma di dischi crowd rock, lo so che è un incubo, è per questo che la chiamo, no? Io non so cosa mi succede, ma tutte le notti mi sveglio sudato, urlando, perché sogno i clienti, quelli antipatici. Quelli che venivano tutti i santi giorni in negozio, stavano lì due ore e non compravano niente. Lei è presente, tipi così? Anche lei fa così col suo negoziante? Di fiducia, magari. Ma le sembra una bella cosa? No, me lo dica, perché almeno chiariamo una volta per tutte, eh? No, perché i clienti come lei sono la prima causa di sbattimento nei negozianti di dischi. Sì, che poi siete proprio quelli che fanno sempre gli amiconi, eh? Sì, consigliami qualcosa, e ciccia, e poi non comprano mai niente. Ah, sì, poi la musica si scarica da rete, eh? E allora cosa venite a fare in negozio tutto il giorno? Tutti i giorni? No, perché adesso io voglio proprio capire se l'obiettivo di rompere il coglione del negoziante fosse involontario o viceversa eravate proprio dei bastardi. E no, perché adesso entro proprio in sbattimento duro, eh? No, dico, almeno un disco a settimana, anche solo per far piacere al negoziante. Me lo vuoi comprare o no? Just keep on stuck. Fabbrica di polli. Come non lo capisci? Ma vedrai che non lo capisce. Tarek, allora. Tarek, vieni qua. La senti l'acqua che bolle? La senti? Ecco, allora. Tarek, dai, acqua che bolle. Sale grosso. Quindi? Vedi che non capisce. Ma quindi? Quindi, dai, Tarek, pa. Pa, sale grosso. Sale grosso, acqua che bolle, pa. Che cosa succederà adesso? Data la sua particolare brillantezza intellettuale, Tarek finirà i suoi giorni in un ricovero per polli picchiatelli? Lo scoprirete solo risintonizzandovi da lunedì a venerdì alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo autistico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude. Fabbrica di Polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen con Roberto Accornero, Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Paolo Corsi, Giovanni Della Morte, Luca Gemma.